Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City che riparte questa sera dopo la pausa estiva. Riprendiamo parlando di biogas. È attivo da poche settimane il primo impianto in Italia per la produzione di bio-GNL, cioè biometano, quindi derivato diciamo del biogas, biometano liquefatto. Dalla società agricola cooperativa Speranza, nelle vicinanze di Torino, questo biometano liquido prodotto a partire da scarti agricoli e raffreddato a 160 gradi sotto zero fino a diventare liquido, andrà a riempire i serbatoi dei camion del gruppo Maganetti, che è uno storico gruppo valtellinese di trasporto industriale. Ma diciamo così, l'impianto della Speranza, è proprio il caso di chiamarlo così, sarà presto in buona compagnia. E diciamo, in questo modo i 2500 mezzi a GNL che attualmente circolano nel paese potranno per la prima volta far conto su una produzione autoctona appunto di bio GNL. Allora, quali aspettative si aprono adesso? Ne parliamo con Piero Gattoni, che è il presidente del CIB, il Consorzio Italiano Biogas. Buonasera Piero, bentornato a Smart City. Ciao Maurizio, grazie, un saluto agli ascoltatori. Allora, intanto ricordiamo brevemente che cosa implica per un'azienda agricola in termini di dotazione tecnologica la produzione di questo bio-GNL. Per produrre il bio-GNL dobbiamo partire ovviamente dalla produzione di biogas, quindi il processo rimane quello che abbiamo imparato a gestire negli ultimi 10 anni, quindi dai sottoprodotti, dagli effluenti zootecnici e dalle culture di secondo raccolto noi possiamo produrre il biogas, che di fatto è composto per il 55% da metano e per la restante parte da anidride carbonica. Per arrivare alla liquefazione dobbiamo avere un primo processo di raffinazione per separare la parte di metano dalla parte di anidride carbonica e quindi andare a raffreddare, come dicevi tu, a temperature fino a 150-160 gradi il metano per poterlo poi liquefare. Un impianto, un giochino che costa qualche milione comunque, no? Sono investimenti sicuramente importanti, infatti hai citato il caso della cooperativa Speranza, spesso vengono portati avanti anche da iniziative consortili o comunque cooperative da parte dei soggetti agricoli. Ecco, dicevo che questo impianto della società agricola cooperativa Speranza sarà presto in buona compagnia, ce ne sono altri in arrivo. Sì, tra i nostri soci abbiamo una ventina di impianti che sono in fase di definizione della partenza del cantiere di costruzione. Quindi quello che è importante è che noi possiamo potenzialmente dai nostri sottoprodotti agroindustriali e dalla nostra produzione agricole arrivare a produrre anche un biocarburante 100% made in Italy. Quindi c'è una grande prospettiva, una grande potenzialità. No, aspetta, scusami, no, adesso ci arriviamo. Allora, no, perché adesso immagino che adesso volevi aprire la tematica. Adesso te la faccio aprire, io ti faccio una domanda ad hoc. Ti chiedo ti rifaccio la domanda adesso, ma solo per rilanciartela, di dirmi i numeri, 20 impianti che produrranno X biometano. Allora, rifaccio questa con i 20 impianti. Sì, sì, okay, sì, questa, okay, 20 impianti che produrranno, che sarà sufficiente la metà, quel numero lì che comunque, secondo me, dà anche all'ascoltatore così un senso, una misura di che cosa stiamo parlando, no? E poi dopo ti faccio la domanda su che cavolo succede adesso, perché mi sembra una cosa, dicevamo. Okay. Vado, ecco, dicevo che l'impianto di questa società, di questa cooperativa agricola Speranza, sarà presto in buona compagnia, ce ne sono altri in arrivo. Sì, una nostra stima parla di 20 impianti tra i nostri consorziati che sono già in fase avanzata di autorizzazione, alcuni hanno già aperto i cantieri e presto si aggregheranno alla produzione della Speranza. Stimiamo circa 35.000 tonnellate di bio-GNL, questo biocarburante avanzato totalmente made in Italy, che potrà soddisfare metà dell'attuale consumo di GNL dei 2.500 mezzi pesanti circolanti attualmente. Quindi questo è anche tutto biocarburante che viene a sostituirsi da GNL importato dall'estero. Certo, da gas naturale liquido importato dall'estero e tendenzialmente direi anche di origine fossile. Ecco, adesso che cosa succederà? Perché qui si apre una nuova strada per il biometano. Però Piero, fammi fare una battuta, di strade per il biometano se ne sono aperte tantissime negli ultimi anni, sono tutte però delle stradine di montagna molto difficili da percorrere, no? Con 20 impianti potreste rifornire metà dei 2500 mezzi che in Italia girano a GNL, ma i camion in Italia sono 4 milioni, insomma... La situazione è un po' così. C'è un grande tema. A volte quando si parla di biometano si pensa che il problema sia dal lato della produzione. Quello che noi spesso cerchiamo di sottolineare come produttori, che il tema invece è di avere una strategia sul consumo di questo importante prodotto. Già con l'LNG si otterrebbero dei significativi riduzioni nei trasporti delle emissioni. Dove è difficile, soprattutto sul trasporto pesante, ricordiamolo, è molto difficile ridurre pesante, le emissioni. Esatto. Poi invece sul bio-LNG addirittura noi potremmo arrivare a ridurre il 100% le emissioni, certo. Quindi sarebbe veramente un percorso utile. È ovvio che per fare questo abbiamo bisogno di una politica di indirizzo che riguardi tanti settori, perché come dicevi tu abbiamo bisogno anche di avere i mezzi per poterli, diciamo, per creare questo mercato, certo. E abbiamo bisogno di avere anche le infrastrutture. Ricordiamo che sono oggi 74 le stazioni di GNL in Italia, ma sicuramente è una dotazione che va implementata. Quindi noi pensiamo che il biometano sia una grandissima opportunità, abbiamo 1600 aziende che producono oggi biogas per la cogenerazione distribuita, che potrebbero nel corso degli anni utilmente essere riconvertiti per la produzione laddove serve ancora di energia programmabile, ma anche per biometano, per i trasporti e per gli usi industriali. Va bene, allora grazie Piero Gattoni. Grazie Maurizio, a presto, grazie. E allora cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.